Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, 8, 17 minuti, 27 secondi qui in diretta agli studi di Milano, Oscar Giannino, ancora per questa settimana, la prossima, da solo e naturalmente, ohimè, con qualche lacrimuccia pensando al nostro carissimo Alessandro Milan, a quale mando a nome anche vostro un abbraccio come faccio tutte le mattine. E andiamo subito ai temi del giorno, anzi cominciamo con i santi. Oggi è un grande santo perché testimonia la coerenza di fronte agli eccessi del potere, perché San Tommaso Becket, in questo 29 dicembre, Tommaso Becket di famiglia borghese, non nobile, studia, diventa cancelliere del re Enrico II in Gran Bretagna. Quando il re Enrico II promulga le Costituzioni di Clarendon nel 1164, uno degli atti più importanti per la codificazione delle basi della common law e del potere sovrano rispetto alle consuetudini precedenti. Sapete che la Gran Bretagna e i paesi di common law in realtà non hanno il mito come noi del diritto positivo creato dal legislatore, si fidano molto di più delle consuetudini stratificate e cristallizzate nel tempo, che vengono quindi dalla tradizione delle comunità. Però di fronte a questa Costituzione di Clarendon, il cancelliere del re, che è un vescovo e un ecclesiastico, inizia a dire: no, io sono cancelliere del re, ma prima sono uomo di Dio, e qui si mette sotto i piedi i diritti della Chiesa di fronte a quelli della corona. Oggi si direbbe che aveva ragione Enrico II, ma invece il vescovo cancelliere del re sceglie di fare fino alla fine l'uomo di Chiesa, e dopo 6 anni di esilio torna nella Canterbury, perché è diventato il primate, no, della Chiesa d'Inghilterra, e il re Enrico II dice: basta però, dai, su. Qualcuno intorno a lui prende l'invito del re a liberarsi di questo contraddittore polemico, che è Thomas Becket, un po' troppo alla lettera, e 4 sicari lo uccidono nella cattedrale. Diventa quindi il simbolo per la Chiesa, che lo canonizza pochissimo dopo, del no a tutti i sovrani europei che vogliono affermare il proprio diritto. E però diventa, insomma, anche un martire della coerenza della Chiesa, perché se lo prendiamo alla lettera diventa un eroe del primato temporale della Chiesa, in quanto tale non mi è mai piaciuto. Però la coerenza, questo sì, anche di fronte a un re che chiede di piegarti. Oltre a Tommaso Becket, San Davide re di Israele, non devo richiamarvi l'importanza del fondatore della linea dell'ascendenza, poi anche del Messia, Gesù Cristo. Eppure un re peccatore, che ne ha fatti di sbagli, per chi conosce la storia di Davide nell'Antico Testamento. Cosa c'è da ricordare oggi? Con la nuova Costituzione, che entrava in vigore in questo giorno, il 29 dicembre 1978, la Spagna diventa ufficialmente e finalmente post franchista, e pensate, per chi dice che il debito pubblico italiano, i debiti pubblici non si pagano, si possono annullare e così via, in questo giorno, il 29 dicembre del 2006, solo in questo giorno nel 2006, cioè 60 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, il Regno Unito finisce di pagare i prestiti agli Stati Uniti che erano venuti per la Seconda Guerra Mondiale, il Land Lease. Ecco, quindi c'è chi li paga i debiti, secondo me sono da rispettare più coloro che li pagano che coloro che credono di farne a iosa e poi predicano magari politicamente che i debiti si annullano con un click, ma non diciamo scemenze. Tra i compleanni ne ricordo solo uno, quello di un attore di cui io sono abbastanza fan e seguace, Jude Law, quello del giovane papa, anche di Young Pope, che Bertolucci è più giovane di me, e comunque auguri. Allora, prima di andare ai temi della, dei nostri ospiti, che vi preannuncio subito, parleremo prima di questa ipotesi che si è fatta strada, sembrava farsi strada in Parlamento, e poi ieri è stata travolta dalle polemiche, cioè di restituire ai parlamentari che, nel caso in cui in questa legislatura non maturassero in autunno il loro diritto pieno alla legislatura di rapporto previdenziale, intanto i contributi versati. È scoppiata una polemica che approfondiremo, perché sembrava una buona uscita per comprarne il consenso all'ipotesi di elezioni anticipate. Il Movimento 5 Stelle ha sollevato la polemica, il PD, che sembrava in procinto di formalizzare questa proposta, si è trovato in difficoltà. Sui giornali di oggi troverete la marcia indietro, in buona sostanza, del PD, ma la approfondiremo. E quindi io intanto fin da adesso vi dico, chiamateci all'800240024 per dirci la vostra opinione, se vi sembra giusto che dobbiamo dare subito i contributi non versati ai parlamentari in questa legislatura, se si va a votare prima, così siamo sicuri che non vogliono protrarre la legislatura solo per questo. Io devo ricordarvi solo una cosa su questo argomento, a proposito del fatto di come sono trattati i cittadini comuni e come i parlamentari, perché i parlamentari naturalmente ci dicono: ma noi la riforma dei vitalizi l'abbiamo fatta, non è più come un tempo. Sì, è vero, ma anche la riforma dei vitalizi, cioè il trattamento previdenziale post riforma, resta a loro vantaggio, possono andare in pensione, riscuoterla sino a 60 anni, i cittadini comuni ovviamente no. Il rapporto tra loro versamenti contributivi e quello che versa l'amministrazione è più vantaggioso rispetto a quello dei cittadini comuni, cioè nostri. E soprattutto c'è un tema sul quale nell'invitarvi a telefonarci all'800240024 vi invito a riflettere, perché è giustamente segnalato nella pagina delle lettere di Repubblica, sulle quali, sulla cui pagina scrive una lettrice di Repubblica, ricordando quanto segue. Ripeto, stiamo trattando dell'ipotesi per i parlamentari che non maturano la piena legislatura di restituirgli in forma di buonuscita i loro contributi. Ecco, dice la lettera che trovate a pagina 28 di Repubblica: in relazione alle polemiche sulla legge sui vitalizi parlamentari, voglio portare all'attenzione la situazione di molti cittadini, noi, che per svariati motivi non maturano il diritto alla pensione perché non hanno totalizzato almeno 15 anni di lavoro. I contributi versati per chi non ha 15 anni, ripeto, di lavoro, i cosiddetti contributi silenti, vengono incamerati dall'INPS senza nessuna possibilità per il cittadino di richiederne la restituzione. Ecco, ricordiamoci che stiamo parlando di un paese in cui a noi cittadini comuni i contributi versati per 14 anni e 364 giorni non fanno maturare alcun diritto, A, B, non ci vengono restituiti, C, vengono incamerati dallo Stato con l'INPS. Stiamo parlando invece dell'ipotesi di ridare ai parlamentari, virgola, che dopo la riforma dei vitalizi hanno comunque un rapporto contributivo molto più vantaggioso del nostro, perché pagano di meno rispetto a quello che ottengono di noi, poco meno, ma meno, più di quanto fosse scandalosamente bassa prima la loro quota rispetto a quello che ottenevano, ma comunque ancora meno di noi, e ottengono prima di noi il rapporto. E si parlava dell'ipotesi di restituirgli subito i contributi che sarebbero stati silenti. I nostri restano silenti per 15 anni. Ecco, potete chiamarmi, ma alla luce di questo piccolo, cosa che dà l'idea di come siano diverse le cose. Quindi avremo ospiti su questo, e avremo ospiti poi nella seconda parte della trasmissione, in questo caso alla CGIL, a cui rendo merito di una cosa che ieri, leggendo sui giornali veneti, mi ha fatto da una parte sorridere, dall'altra cazzare, dare qualche pugno sul tavolo, perché stiamo parlando di gare pubbliche bandite dalla regione Veneto, quindi la regione amministrata dal presidente Zaia, guida una giunta di centrodestra a trazione leghista, e la CGIL Veneto ha messo in busta già nella scorsa estate, ad agosto, delle previsioni su chi avrebbe vinto delle gare bandite dalla Regione Veneto. E guarda, le previsioni fatte dalla CGIL sono puntualmente avverate. Quindi, fortissimo sospetto di meccanismo di aggiudicazione pilotata dalla politica. E allora mi sono detto, beh, chiamiamo gli amici della CGIL del Veneto e facciamoci spiegare come e perché è così facilmente possibile fare queste previsioni. Come vedete non è nord e sud, la macchina pubblica in Italia è soggetta a cose di questo genere un po' dovunque, e io mi levo il cappello e ringrazio tutti coloro che fanno il servizio del cane da guardia pubblico e segnalano pubblicamente le cose che non vanno. Se poi ci riescono a farlo prima, le loro arti divinatorie significano solo una cosa, che purtroppo il tasso di opacità e di interessi impropri in una pubblica amministrazione così pachidermica, in una politica con le mani così lunghe, rimane troppo elevato. Rimane troppo elevato. Pirucco, prima di andare ai primi ospiti, un po' di temi per segnalarvi la differenza delle aperture dei maggiori quotidiani. Il Sole 24 Ore, l'avete sentito, Giulio Crivelli, giornalista del Giornale Radio, ha queste tre pagine di intervista al ministro, fit di intervista a Padoan sul caso MPS. Mi hanno lasciato molto perplesso queste tre pagine, leggendo l'incalzare delle domande e delle risposte del ministro non trovo una sola riga sui responsabili di anni e anni del disastro MPS. Pare quasi che MPS sia in ginocchio perché ce l'ha buttato l'Europa. Allora, io, siccome ho twittato anch'io sull'opacità e la pessima comunicazione della vigilanza europea sull'aumento dell'ammontare dell'aumento di capitale per MPS da 5 miliardi nel caso in cui fosse passato l'aumento di capitale solo di mercato agli 8.8, che però significheranno 6.3 per il tesoro, della versione dell'aumento di capitale precauzionale a cui si è andato dopo il fallimento di quello di mercato, beh, questo ho criticato anch'io. Ma che in tre pagine non ci sia un cenno alla storia politica decennale e ai disastri 2008, al silenzio e alla collusione dei regolatori, beh, a me questo lascia del tutto insoddisfatto. Poi vi invito a leggerla, ovviamente, per apprendere cosa pensa il ministro, che non dà un termine per l'uscita del pubblico da MPS, difende il fatto che si dà pieno ristoro anche a investitori retail che non sono risparmiatori, perché hanno comprato il titolo sul mercato secondario e anche in quel caso si verranno convertiti a 100. Ma lui dice che il problema non è tanto di giustizia quanto di dover parare la banca dalle cause. Per me il problema di giustizia esiste, caro ministro, perché io non voglio trattamenti differenziati in cui, in nome della tutela del risparmio, chi ha comprato un titolo a 52 se lo vede convertito a 100. Ma scherziamo o facciamo sul serio? Lo dico anche ai colleghi del Sole 24 Ore. Comunque, questo è sicuramente da leggere, e su questa scia il Corriere della Sera è il grande quotidiano che più sottolinea, nell'impostazione del suo giornale, la fortissima delusione e la voglia anche di polemica da parte di Gentiloni e del ministro Padoan per questo atto da parte della vigilanza europea, che ha alzato l'ammontare dell'aumento di capitale. L'ira di Palazzo Chigi e del Tesoro per MPS, questo è il titolo, come vedete, molto forte del Corriere della Sera, dell'articolo di Marco Galluzzo. Devo dire che questo sentimento di ira di Palazzo Chigi non è raccolto con altrettanta durezza negli altri quotidiani, né dalla Stampa, che si segnala ancora una volta per apertura invece delle prime pagine sul quadro internazionale Israele e Russia all'affondo di Obama. Sapete che lo schiaffo di Obama a Israele sulle terre occupate in realtà è fatto per complicare la vita a Trump, che ha immediatamente il suo successore, che ha immediatamente detto che non sarà d'accordo né su questo né sulle polemiche con la Russia e così via, e a dire la verità neanche su Repubblica, perché Repubblica apre su tutt'altro, più posti ma meno stabili, cioè sul bilancio purtroppo negativo dell'occupazione ieri nel primo rapporto trimestrale che è stato emanato in maniera congiunta da Istat, Osservatorio del Lavoro, quindi Ministero, INPS e INAIL, sapete che ancora una volta gli occupati giovani sotto i 35 anni diminuiscono, e su questo vi segnalo l'editoriale di Alessandro De Nicola in prima pagina: meglio l'odiato buono, quello del voucher, che l'impiego in nero. Ma Repubblica è molto meno dura nel registrare Palazzo Chigi e il MEF come in guerra contro l'Europa, per così dire, rispetto all'aumento di capitale MPS. Si dà più spazio ai temi politici. Troviamo qui un articolo sul retromarcia del PD sui vitalizi, per esempio, un'altra pagina su Zanetti, ex vice ministro dell'economia, che non rientra al governo perché tiene aperta la polemica su sul fatto che questo governo, il governo Gentiloni, non ha un accordo vero e proprio esplicito con Verdini. Tra le cose politiche segnalo anche sul Corriere della Sera la lunga intervista a Prodi di Massimo Franco, in cui si dice il governo Gentiloni non deve fare una legge elettorale anti 5 Stelle, sarebbe un grave errore, quindi una proporzionale pura per non farli vincere e governare, in parole povere, tradotto quella che invece vuole Berlusconi, ma buona parte del Parlamento, indica un Mattarellum corretto, ma dicendo ci deve essere un maggioritario perché chi ha più voti vinca, e quindi anche i 5 Stelle, se sono loro a farlo. A me sembra saggia questa cosa, e sulla vicenda senese non risparmia Prodi, lo sottolineo, a differenza di altri, anche autocritiche politiche molto forti, perché dice vicende come queste fanno perdere la fiducia di tutti gli italiani nel sistema del credito, ma ci sono stati errori grandissimi, ecco, ma almeno da una parte qualcuno li ammette. Allora andiamo alla vicenda di questa ipotesi dei versamenti in vista dei trattamenti previdenziali post vitalizi, diciamo così, dei parlamentari, che ieri ha scaldato le cronache politiche di fronte all'ipotesi che si versassero questi 50.000 euro di contributi non versati, già versati dai deputati, e che non avessero raggiunto il tempo minimo di maturazione in questa legislatura per vedersi riconosciuti come legislatura piena, glieli versiamo, così siamo sicuri che si fanno passare ogni voglia di far durare la legislatura solo per questa ragione. Il problema è stato sollevato dai 5 Stelle, ed è per questo che noi abbiamo chiesto su questo tema di spiegarci come sono andate le cose dal loro punto di vista al deputato Movimento 5 Stelle Riccardo Francaro, che ringrazio di essere con noi. Buongiorno Francaro. Buongiorno a lei, Oscar. Allora, innanzitutto, come scrive Repubblica, è vero stop, c'è stato lo stop, la retromarcia del PD, le risulta? Ci risulta dal punto di vista degli articoli di stampa, dalle dichiarazioni, perché poi gli atti concreti si fanno in ufficio di presidenza o addirittura in sede di discussione del bilancio della Camera, che si fa generalmente ogni anno ad agosto, in modo che la gente non segua le vicende interne della Camera, 1 miliardo di euro di soldi dei contribuenti spese spesso in privilegi. E niente, qui abbiamo assistito al solito schema: proviamo a buttarla lì, vediamo se la gente se ne accorge, casomai se monta lo scandalo facciamo un passo indietro. E grazie anche ai mezzi di comunicazione che hanno dato spazio e risalto a questa vicenda, oggi sentiamo dichiarazioni per cui addirittura sembra che non ci fosse nessuna intenzione di farlo, cioè di dare questi 50.000 euro come bonus elezioni, bonus casta, per poter andare anticipatamente ad elezioni. Voglio solo dire che questo non l'ha mai scritto nessuno. Io vengo per esempio dal Trentino, una provincia autonoma dove questo è già stato fatto. Certo. Il Partito Democratico non è che si sia inventato una novità, ha semplicemente preso quello che ha fatto a livello locale in altre zone d'Italia e ha voluto riportarlo a livello nazionale. Per esempio, appunto, nella mia provincia i vitalizi, che erano stati dichiarati aboliti, in realtà cosa avevano fatto? Si erano anticipati tutti i soldi del vitalizio calcolando un'aspettativa di vita a 90 anni, cioè un meccanismo a 90 anni più dei cittadini normali, sì, perché loro vivono. Quindi è un meccanismo che abbiamo già visto, secondo me totalmente un privilegio inaccettabile, per il semplice fatto che il sistema contributivo si basa sul principio di solidarietà intergenerazionale che ci hanno spiegato da sempre essere oggi fondamentale per la tenuta del sistema, cioè noi paghiamo con i nostri contributi le pensioni degli attuali anziani, e quindi se mancano i nostri contributi non riusciamo a pagare le pensioni degli anziani. Perché il parlamentare deve avere questo privilegio di potersi intascare subito e non versarli invece all'INPS o un'altra parte? Anche perché ricordo che ci sono innanzitutto il 52% degli dei pensionati prendono meno di 1000 euro oggi in Italia, ma abbiamo più di 2 milioni di pensionati che prendono meno di 500 euro, cioè vivono sotto la soglia di povertà, quindi veramente è uno schiaffo. No, ma oltretutto, io apposta all'inizio ho ricordato cosa capita a noi cittadini comuni che non maturano almeno il numero minimo di 15 anni di versione, si perdono, e si perdono perché l'ordinamento dice che è giusto perderli, è giusto che noi non li riceviamo, perché comunque siamo tenuti appunto a quello che diceva Fraccaro prima, cioè siamo tenuti a contribuire all'equilibrio intergenerazionale, e se noi non abbiamo lavorato abbastanza, noi il trattamento non lo avremo, ma complessivamente siamo tenuti come cittadini appunto al fatto che l'INPS, come sapete, ha dei fondi che sono in equilibrio attivo, ne ha tanti altri ereditati dal passato, ne ha dei privilegi anche nel privato, i post telegrafonici, i dirigenti e così via, per cui vanno ripianati, e quindi noi però i contributi li perdiamo. Perché questo principio di compartecipazione, visto che anche nel bilancio di Camera e Senato c'è un enorme sbilancio tra trattamenti erogati ogni anno in conto economico da chi ha maturato i vecchi vitalizi o onusti di privilegi e i contributi annuali versati da deputati e senatori, perché non vale, Fraccaro? Ma questo è un problema annoso, nel senso che i parlamentari hanno sempre potuto approvare leggi che chiedevano sacrifici agli italiani con nonchalance, cioè con uno spirito leggero, perché tanto non si applicavano e non si applica a loro, cioè ai parlamentari, perché vige il principio dell'autonomia, dell'autodichia, per cui il Parlamento è un mondo astratto fuori dalla realtà dei cittadini normali, e quindi sì, per i parlamentari si fanno delle regole, per i cittadini un'altra. Quindi in questo modo è molto semplice dire, certo, vabbè, vi tagliamo un po' di stipendio, vi tagliamo un po' di diritti. Cioè, nel momento in cui hanno fatto la Fornero, io immagino un parlamentare che doveva votare la Fornero e pensava tra sé e sé, beh, ma io non voglio andare in pensione a 67 anni o a 70 anni per i più giovani, no? Invece hanno potuto votarla a cuor leggero perché tanto non si applicava. Perché tanto allora non si applica. Allora, io ringrazio intanto Riccardo Fraccaro e io li ringrazio anche per quello che hanno fatto su questa vicenda. Non c'era ancora la proposta formale? Beh, meglio che così si sia evitata anche la sola idea, perché questa è la posizione del PD. Se posso interrompere, certo, in realtà non tutti i mali vengono per nuocere, perché adesso l'avevamo già fatto, però non c'era clamore mediatico. Adesso presenteremo una proposta di applicare la Fornero ai parlamentari. Bravo. Anch'io sono per l'obolo. Beh, molto probabilmente questo genererà in alcuni ambienti politici volontà di fare retromarcia sulla Fornero anche per tutti, se ci fosse, esatto, questa specie di obbligo. È ovvio, purtroppo, perché naturalmente quando si soggiace agli stessi trattamenti si maturano opinioni un po' diverse, magari anche sulla congruità e l'opportunità di riservarli agli altri, cioè ai cittadini normali. Grazie a Fraccaro da questo punto di vista. Direi che andiamo in pubblicità e torniamo. Andiamo subito dopo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, tornate in diretta. E per correttezza, però, a dirvi la verità, mi è sembrato anche fondamentale, giusto, elementarmente giusto, sulla vicenda su cui abbiamo sentito prima il deputato 5 Stelle Riccardo Fraccaro, sentire la parte che è stata additata come la parte politica che stava avanzando la norma, poi ha negato di averlo fatto, eccetera, eccetera. Sui giornali su Repubblica di oggi trovate al meglio rispetto agli altri la cronaca di questa vicenda, e cioè dell'anticipo poi parlamentare in caso di non maturazione del tempo adeguato per legislatura piena, diciamo così, dei contributi non versati rispetto al trattamento dei comuni cittadini che sotto i 15 anni i contributi silenti lì in Camera l'INPS mica li vedono indietro e tantomeno in tempo reale. Quindi, per dirci se esistono forzature nella ricostruzione fatta dalla stampa e dai 5 Stelle, sentiamo, abbiamo con noi anche il deputato PD e questore della Camera Paolo Fontanelli, che ringrazio di essere con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, forzature ci sono state? Beh, questa è una notizia inventata, diciamo. Non so se da parte del giornale di Repubblica o se qualcuno l'ha ispirata. Questo non può dirlo solo il giornalista di Repubblica che ha fatto quel pezzo. Però la notizia è totalmente inventata. Io posso solo dire che il 21 di questo mese, cioè prima di Natale, si è tenuta anche la riunione dell'ufficio di presidenza, che è l'organo competente in questa materia, non le commissioni, perché è sul regime previdenziale come sulla gestione delle indennità, insomma è l'ufficio di presidenza a decidere, e di solito lo fa sulla base di istruttorie predisposte dal Collegio dei Questori, su base di indicazioni che vengono dal Presidente dell'istituzione della Camera in questo caso. Beh, noi il 21 abbiamo discusso e approvato il bilancio per il prossimo anno e il triennale. Abbiamo riconfermato tutte le situazioni attuali per quanto riguarda la materia delle indennità e anche della previdenza, senza nessun cambiamento previsto. Quindi, diciamo, non ci sono, non dico solo le condizioni politiche, che sono state smentite anche dai dirigenti del PD, ma non ci sono proprio nemmeno le condizioni organizzative o finanziarie per un provvedimento del genere oggi. E questo a me sembra la migliore delle rassicurazioni, posso dirlo, perché francamente Fontanelli, chiunque avesse avanzato una proposta simile, non ne faccio questione politica, ne faccio questione di congruità rispetto al trattamento. Io dando atto del passo avanti fatto rispetto ai vecchi trattamenti dei vitalizi con la riforma che è intervenuta, e pur avendo più volte scritto che anche la nuova riforma comunque restano delle condizioni favorevoli al parlamentare rispetto al cittadino comune, che hanno anche un fondamento, voglio essere corretto fino in fondo, nel fatto che la natura del vitalizio è una natura non strettamente solamente previdenziale, poiché esiste anche giurisprudenza costituzionale su questo, deve garantire il fatto che possano fare politica anche coloro che non hanno risorse, quindi è un po' diverso dalla pensione. Però detto tutto questo, io nel ringraziarla, ma siamo stati corretti, però dovevamo chiederlo anche a voi, perché altrimenti io rifiuto sempre l'idea di, per così dire, di una teatralizzazione della vicenda. Voi dite no, questa vicenda noi non l'abbiamo, questa proposta non l'abbiamo mai avanzata, e io mi auguro che sia davvero così. Se mi consente, certo. Questo per chiarezza, anche penso che questo tipo, diciamo, di polemiche, di invenzioni, quando avvengono, sono nocive per tutti, ecco. Io c'è, no, chi è portato a utilizzarle strumentalmente, no, ma poi si risolvono conto, non è molto, non esatto. Si fa proprio una buona idea. Comunque no, si semina un'antipolitica anti-istituzionale che non fa bene a nessuno. Va bene. Ecco, chiarito questo, noi abbiamo fatto il nostro mestiere, grazie anche a Fontanelli. Andiamo invece a sentire la vostra opinione rapidamente. Arrigo, che ci chiama da Trento. Arrigo, buongiorno. Dica. Io volevo solo dire che in realtà tutte queste leggi leggine servono solo al palazzo. Il fatto di fare leggi è ininfluente, perché dopo un anno o due ne fanno delle altre che cambia il tutto. Quindi è a loro vantaggio sempre. Quindi per me, io ormai ho una certa età, posso dire che non siamo in democrazia, siamo in oligarchia. Oltretutto un'oligarchia malata, perché via uno c'è subito il rincalzo. Scalfari scrive nei suoi editoriali che è verità vera dire che siamo in un'oligarchia, e che è un bene essere in un'oligarchia, perché c'è del male invece nell'eccesso di mito di sovranità popolare e di democrazia diretta. E quindi sì, l'autodichia, per esempio, questa faccenda per la quale Camera e Senato si fanno da soli le regole sulle retribuzioni e sulla previdenza, a mia opinione, e sono sottratte al regime contabile di controllo della Corte dei Conti e così via, a mia opinione è un privilegio senza fondamento. Se andiamo a vedere qual è anche il regime riformato di trattamento previdenziale per deputati e senatori, quindi il regime contributivo come quello post riforma, quanto prenderanno loro dopo il massimo, per così dire, di legislature e di rendimento, quindi contributivo del loro montante rispetto alla Gran Bretagna, noi abbiamo importi 4 volte superiori rispetto al parlamentare britannico. Insomma, queste cose sono ingiustificabili, io la penso così, come lei, Arrigo. Roberto da Cuneo, che dice, Roberto? Buongiorno, sì, io sono d'accordo, se questa cosa della restituzione dei contributi vera è un'ennesima prova che siamo nelle mani di delinquenti, poi in definitiva. E visto che oltretutto questi si squassano nella Costituzione, l'articolo 3, uno dei principi fondamentali, sì, che siamo tutti uguali, non è vero, appunto, quindi è questa cosa dovrebbe essere perlomeno anticostituzionale e deprimente, come nel famoso romanzo 1984 di Orwell, alcuni sono più uguali degli altri, esattamente. Nel caso specifico forse il famoso Fattoria degli Animali, sì, dove i maiali prendevano potere, è ancora più rappresentativo perché il maiale... Ah, lo sapevo che andava a dire, che andava a dire che era il maiale, no. Però è così, nel romanzo è così, quindi è giusto ricordarlo perché è un grandissimo libro quello, un libro dei fondamenti della nostra civiltà, secondo me, La Fattoria degli Animali. Simone da Prato, Simone. Sì, buongiorno, anch'io la penso un po' come i signori ho sentito prima, cioè non è più possibile sopportare queste disparità. Voglio dire, sentire dire che un parlamentare tira avanti, tirano a campare per finire la legislatura, sì, oppure gli si rendono indietro i soldi, perché se no è una cosa, rispetto a un'azienda privata che si deve confrontare con la concorrenza estera, con la globalizzazione, cioè, ma qui siamo veramente impero romano, universi mondi diversi, Simone. Comunque fanno i manager, trattiamogli da manager, i manager, lei lo sa, Simone, no, che sono ictuoculi, si possono buttare fuori, non hanno neanche le garanzie, sia pur diminuite con la riforma dell'articolo 18, e i manager sono i primi che vanno a casa, basta un cenno e vanno a casa, figuriamoci, lei propone di applicare questo regime ai politici. Io mi accontenterei del recall. Il recall è l'istituto che esiste in alcuni paesi di common law, per cui anche sugli eletti, per gravi motivi, si fa una raccolta delle firme e si può fare un'elezione nel collegio che li ha eletti per vedere chi è d'accordo nel far decadere dal mandato. Quello io sarei favorevole. Scalfari direbbe invece che ci dobbiamo tenere l'oligarchia perché i partiti sono il fondamento. Ma vabbè. Allora, andiamo invece a una vicenda di tipo diverso, in cui c'è chi svolge il ruolo di cane da guardia, lo fa pubblicamente, non è che glielo devo attribuire, lo fa pubblicamente. Stiamo parlando di una vicenda di cui ho appreso ieri leggendo i giornali veneti, e il titolo del Gazzettino era: Veneto lavoro, la CGIL azzecca i nomi dei vincitori e sferza il presidente della regione Zaia, indaghi, perché ad agosto la CGIL Funzione Pubblica del Veneto fece una previsione, cioè ci sono dei concorsi banditi dall'ente strumentale della regione Veneto Lavoro e noi della CGIL Funzione Pubblica del Veneto mettiamo in busta chiusa chi li vincerà queste selezioni. E guarda caso adesso poi ha presi i nomi dei vincitori e le cose tornano, cioè delle due l'una, o la CGIL Funzione Pubblica del Veneto ha la perla di vetro, nel qual caso beati i loro iscritti, perché possono prevedere magari l'esito di concorsi a pronostici e a premi, ma no, sto scherzando, oppure, come è evidente, siamo in presenza di nomine pubbliche fatte con criteri su cui è legittimo avere il sospetto che siano pilotate, tanto che qualcuno può dire mesi prima: guardate, vi metto in busta chi è che alla fine verrà selezionato. Allora, con questa premessa abbiamo chiamato, ringraziandolo prima, perché queste sono le vicende che quando leggo mi mettono di buon umore, a differenza di quelle precedenti, Alessandro Biasioli, appunto, della CGIL Funzione Pubblica. Buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Come, avete la palla di vetro oppure no? Ci spiega come è stato possibile, come si spiega questa vicenda? Guardi, magari questa sera c'è l'estrazione del Super Enalotto, se avessi la palla di vetro andrei a giocare subito i numeri vincenti. E ci credo. Ma guardi, diciamo che avevamo alcuni segnali per cui insomma si potevano intuire già i nomi delle persone che avrebbero vinto quel concorso, perché i requisiti e i criteri che erano stati pubblicati nel bando, insomma, facevano intuire che erano stati confezionati. Erano ad personam o ad personas? Diciamo di sì. Ecco. E quindi noi abbiamo inteso avvertire il presidente della giunta che secondo noi c'erano delle zone di opacità, diciamo, in quei bandi, perché quei bandi di fatto escludevano una fetta importante di persone che avrebbero potuto partecipare magari avendo le competenze, in quanto dei criteri inseriti nei bandi non permettevano a queste persone di partecipare. Penso per esempio a tutti i ricercatori che magari non avevano già un posto di lavoro, quindi non avevano quell'incarico di posizione organizzativa che era richiesta lì, oppure non avevano avuto specifiche responsabilità che sono date come incarico dai dirigenti degli enti, però magari erano ricercatori che avevano lavorato per loro formazione professionale o per studi, insomma, che avevano tutte le possibilità di poter fare quel tipo di lavoro e le capacità per farlo. Mentre invece se uno scrive le condizioni di una selezione che individuino il curriculum o l'esperienza di coloro che devono partecipare e per poter essere valutati in una maniera che, incastrando nei particolari, sembra individuare il profilo di una persona con nome e cognome, è ovvio che io sto facendo finta di rispettare gli obblighi di selezione pubblica, no? Assolutamente sì, tra l'altro, come dire, l'articolo 97 della Costituzione parla di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione, mi pare che non siano state rispettate, questo è il presupposto assolutamente, quindi, questi principi. Adesso diciamo, siccome voi avete fatto benissimo a fare la vostra azione, in realtà ci sono gli estremi per l'ANAC, per l'anticorruzione di Cantone, o no? Beh, noi in effetti abbiamo segnalato a questa cosa, a questa questione, il presidente Zaia ci ha detto: ma se secondo voi ci sono delle cose che non vanno, fate un esposto. Noi abbiamo preferito fare una segnalazione perché noi siamo un sindacato e ci rivolgiamo ai giudici solo a casi estremi. Sì. Noi abbiamo fatto una segnalazione dove abbiamo messo tutte quelle che noi pensiamo siano le ragioni per cui era corretto fare quel tipo di segnalazione, e l'abbiamo inviata sia all'ANAC che alla Procura della Repubblica. In verità nessuno ancora ci ha risposto. Va bene, io vi prego di dirci, però, di dirci qui ad Attenti a Noi Due, tramite il rapporto che abbiamo instaurato chiamandovi, quali saranno le risposte. Cioè, non le voglio sapere dal Gazzettino, le voglio sapere direttamente da voi, per consentire un follow up, un prosieguo a questo primo ringraziamento pubblico che abbiamo fatto, perché noi scegliamo quelli che chiamiamo i watchdog, i cani da guardia, che l'informazione segnala in tutti i Italia su quello che non funziona nella pubblica amministrazione, nella vita pubblica, sui diritti dei lavoratori e così via. In questo caso il premio è attribuito a voi, però fateci sapere che cosa vi rispondono rispetto alle segnalazioni che avete fatto alla Procura e all'ANAC, perché se non ci diamo da fare dal basso, troppe volte possono avvenire violazioni rispetto alle regole di trasparenza. Quindi intanto grazie e congratulazioni a Biasioli e ai suoi della funzione pubblica del CGL Veneto. Naturalmente il presidente Zaia, qualunque cosa volesse dirci, noi siamo qua. Io vi ricordo solo, prima di salutarvi, di dire: continuate su Radio 24, appuntamento con me alle 4:30, versione di Oscar, che oggi c'è il decreto, è atteso il decreto mille proroghe. Vedremo quante cose buone e quante cose preoccupanti il governo ci infiderà dentro. Continuate su Radio 24.